Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unica trasmissione animalista, antispecista e vegan. Vegan dalla nascita e attenta non solo agli animali, ma anche ai vicini di casa. Quelle bestiacce! La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnoli. Every time, just like the last, on the ship, tied to the... Giuseppe, quando è stata l'ultima volta in cui ti sei spiaggiato? Beh, direi settembre scorso, quando alla fine delle vacanze hanno dovuto riportarmi a casa di peso perché non volevo muovermi dalla spiaggia. In occasione del referendum sulle trivelle parlammo a lungo del tema del disagio che le perforazioni, ma soprattutto l'air gun, la ricerca di fonti fossili sottomarine, procurano ai cetacei. Anche in Italia accade spesso che i cetacei finiscano spiaggiati con grandi mobilitazioni di persone e mezzi per tentare di rimetterli in mare. Esiste anche una banca degli spiaggiamenti gestita dall'Università di Pavia. Il 13 maggio scorso la nostra corrispondente Francesca De Matteis ha partecipato per noi al workshop internazionale verso il primo rifugio per delfini nei mari italiani, organizzato da LAV, Mare Vivo e Tetis, con l'obiettivo di cominciare a lavorare all'istituzione del primo rifugio per delfini dei mari italiani, dove poter ospitare e riabilitare i delfini che provengono dalla cattività e dagli spiaggiamenti. Sentiamo il servizio. O quando dei delfini in cattività vengono sequestrati dalle autorità o provengono da un delfinario dismesso, è impossibile trovare per questi mammiferi marini un alloggio temporaneo o permanente in un ambiente quanto più vicino alle loro esigenze etologiche naturali. Per questa ragione la LAV, Lega Antivivisezione, insieme a Mare Vivo, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Tetis, ha organizzato il 13 maggio a Roma un workshop internazionale per muovere i primi passi in direzione della realizzazione del primo rifugio per delfini nei mari italiani. Una giornata di lavoro dove sono stati coinvolti ricercatori e veterinari italiani ma anche americani. Abbiamo chiesto a Roberto Bennati, vicepresidente della LAV, di spiegarci come nasce questo progetto, che sarebbe il primo in tutta Europa, e poi ascolteremo anche la voce di Giuseppe Notarbartolo di Sciara, presidente di Tetis. Questo progetto nasce in un ambito più grande all'interno della nostra campagna contro lo sfruttamento dei delfini nei delfinari e nell'industria dello spettacolo. Vogliamo essere propositivi all'interno di questa campagna volta al superamento della cattività. E per questo tutti gli animali che sono oggi in cattività dovranno avere una soluzione di accoglienza che possa essere più adatta alle loro condizioni. Molti di questi animali non possono essere rilasciati in natura, alcuni di questi possono seguire un percorso e poi essere rilasciati in natura. Il percorso di un rifugio per delfini è, come dire, una naturale soluzione a un problema che è, come dire, culturalmente basato su un'epoca diversa e che stiamo via via superando. Non a caso circa il 60% degli italiani è contrario ai delfinari e sempre di più la cattività di questi animali si sta comprendendo che è un passo da superare. Si tratterebbe del primo rifugio a livello europeo, giusto? Assolutamente sì, in Europa è il primo progetto, è un progetto internazionale che stiamo sviluppando con altre organizzazioni e con esperti praticamente di tutto il mondo, come abbiamo visto oggi. La sfida è riuscire a mettere insieme una vera alleanza che possa mettere in un unico progetto competenze internazionali di primissimo livello in un territorio meraviglioso come quello italiano. L'Italia sa essere, come dire, un motore di avanzamento straordinario, rimaniamo indietro per tanti anni ma poi riusciamo a fare delle cose meravigliose. in pochi mesi di campagna abbiamo chiuso in Italia due delfinari. Questo, come dire, è la prova del fatto che si può arrivare ad un risultato, e vogliamo essere propositivi con un progetto che è di accoglienza di animali, ma al tempo stesso sarà un grande progetto educativo, perché portare le persone a vedere come vive un delfino dopo la cattività significa sostanzialmente creare le condizioni perché la cattività non esista più. Sono qui con il dottor Giuseppe Notar Bartolo di Sciara, che è il presidente dell'Istituto di Ricerca Tetis. Gli vogliamo chiedere perché è stata scelta l'Italia come punto di partenza per ragionare sui rifugi o santuari in Europa. Beh, in un certo senso l'Italia, più che è stata scelta, è perché l'iniziativa viene da organismi italiani, ma però non è solo per quello, è anche perché l'Italia è esattamente nel centro del Mediterraneo e ha una grande quantità di località che possono essere adibite a questo, e poi perché c'è uno sviluppo di sensibilità in Italia per questo tipo di problemi. Ci sono già delle aree che potrebbero essere più papabili rispetto ad altre? No, non abbiamo ancora svolto un'indagine in questo senso, però ci orientiamo o verso delle piccole baie, che naturalmente devono essere adeguatamente protette dal mare, oppure all'interno di particolari lagune costiere di acqua salata, che sono molto frequenti lungo la costa italiana. Certo, anche perché non si tratta di mettere, come si diceva durante il convegno, un semplice cordolo di limitazione, ma bisognerà ragionare anche su come poi relazionarsi con altre attività industriali, agricole. Esatto, nessuno di questi luoghi è libero da interessi, quindi bisognerà chiaramente relazionarsi con tutti questi che hanno interessi in queste località, e poi non si tratta semplicemente di un recinto, ma si tratterà di una struttura abbastanza articolata con diversi tipi di spazi. Cetacei ci offrono un'occasione per conoscere Marco Tarascio, in arte Moby Dick, attivista dell'associazione Sea Shepherd, l'associazione che si batte contro la caccia alle balene, oltre che contro ogni altra mattanza di animali acquatici. Street artist, pop surrealista, Tarascio dal 2014 realizza murales in Italia. Ha esposto a New York e in diverse gallerie italiane e ha partecipato alla Biennale di Venezia. Recentemente è stato coinvolto nel progetto Lo Specchio Magico del Maggio Fiorentino, che lo ha portato alla ribalta delle cronache. Grazie al momento di particolare visibilità, Tarascio ha messo in evidenza nei media la sua sensibilità animalista, il suo essere vegan e il suo desiderio di costruire una società cruelty free. Lo abbiamo raggiunto al telefono per saperne di più sulle sue motivazioni ed esperienze. Essere animalista e da quando sono piccolo ho dovuto sempre attenzione, diciamo, al mondo animale e al rispetto della natura in genere, e ho cercato nel mio piccolo, tramite i canili e altri enti animalisti, dare il mio supporto. Quando ho capito che potevo metterlo nell'arte e dare un messaggio più chiaro a tutti quanti e più leggibile e semplice, ho deciso di metterlo nella mia arte, e fortunatamente sono riuscito a raggiungere canali abbastanza importanti con l'arte dove potevo dire la mia, anche se ho visto che molte volte i giornali e media hanno un po' travisato la mia visione, che forse era un po' estremista, l'hanno un po' fiocchettata facendola sembrare sempre un po' meno, diciamo, di attivismo, ma la mia è stata sempre schierata totalmente per la voce degli animali, che in questo momento vedo che è sempre un po' messa da parte oppure travisata. Sì, io vedo soprattutto negli ultimi anni un grande interesse per quello che faccio. Nel 2002 alla Biennale di Venezia ho presentato un lavoro contro le corride. Vedevo la gente, diciamo, più interessata, la gente stessa, delle persone umane, che dei media stessi. Infatti mi hanno appoggiato tantissime persone. E alla Biennale ho presentato un lavoro contro Vargas, che, se ci ricordiamo, Vargas era quel pseudo artista che fece morire un cane legato in una biennale, facendolo morire di fame e spacciandolo per arte. Io credo che nell'arte non bisogna sfruttare gli animali, ma bisogna parlare degli animali. Noi non possiamo usare le vite degli animali per, o per la nostra fama o per il nostro interesse o per il nostro guadagno. Gli animali sono esseri senzienti e hanno bisogno di tutela, e ognuno di noi credo che deve essere una pedina che deve fare qualcosa per la protezione loro e della salvaguardia. Fortunatamente mi hanno chiamato a rappresentare il mio messaggio in un'opera classica che fino adesso non è stato mai fatto, anche per il teatro stesso dell'opera. È stata una cosa abbastanza innovativa, ha sposato bene un progetto che diciamo parlasse anche di ambiente e di rispetto della vita stessa. Slovacchia ha musicato e De Nove diciamo, ha scritto i testi per questo specchio magico, dove io nella cavea ho rappresentato questo murales che è stato trasmesso nella parte dentro del teatro. Come figure ho rappresentato un rinoceronte, un leopardo nebuloso, una megattera, una caretta e una tigre. Il rinoceronte credo che sia un tema attualissimo, perché come sappiamo tutti quanti, questa settimana sono state bruciate 105 tonnellate di avorio dal bracconaggio, e deve essere un messaggio chiaro contro il bracconaggio, perché sicuramente anche se ci sono tante parole belle, vedo che per bruciare 105 tonnellate di avorio sicuramente ancora non si sta facendo assolutamente nulla. Oppure molto poco, mentre colgo proprio l'occasione per dire che ad esempio in Nepal da 2 anni invece ci sono stati 0 rinoceronti uccisi, perciò sicuramente in qualche parte qualcosa si sta muovendo, però deve essere molto più incisiva. Mentre per il discorso del leopardo nebuloso, ho rappresentato il leopardo nebuloso perché quest'anno è completamente estinto, e credo che sia una cosa anche questa molto attuale, dove i nostri figli o noi stessi non possiamo più ammirare una bellezza come un leopardo, perché l'uomo l'ha estinto completamente. Un'altra cosa molto importante credo che sia il discorso della caretta che ho rappresentato, perché nei nostri mari vengono lasciate più di 30 km di reti, perciò una cosa, una follia, diciamo una gabbia che fa 30 km dove qualsiasi cosa incontra cattura, e molte volte finiscono gli animali come delfini e carette, che sono la caretta caretta che in tutti i casi è un animale anche questo che lo stiamo completamente facendo sparire dalla terra. La megattera è anche diciamo un po' quello che mi sento più vicino a me, perché il mio logo è il capodoglio, io mi chiamo Moby Dick in arte, e la megattera è l'animale che diciamo più si avvicina a quello che faccio, perché da qualche anno appoggia al 100% i cetacei. E fortunatamente sempre a Firenze, al Teatro dell'Opera, sono stato appoggiato da un ente che a mio parere fa veramente ai fatti, che è Sea Shepherd, che non si tira indietro. Molte volte vengono chiamati pirati come se fosse quasi una cosa, non dico rispregiativa, però quasi se fossero gente determinata, ma alla fine sono gente che si è schierata in prima linea facendo veramente i fatti e dicendo la loro, sia con la faccia che con l'impegno. Erano lì, titolo completamente gratuito, come sono stato io, e siamo tutti quanti schierati per una causa. E qui voglio sottolineare che il teatro stesso dell'opera ha appoggiato in pieno questa iniziativa. La cosa bellissima è che quando sono entrato sotto, dove c'era lo spettacolo ufficiale nel teatro dell'opera, ho avuto un applauso assurdo, che sono rimasto veramente a bocca aperta, ho sentito il vento dalla platea da sotto. La cosa mi ha fatto molto piacere, perché in tutti i casi si vede che c'era un interesse anche da parte degli altri. Restiamo animali? Sì, siamo animali, che dobbiamo svolare le gabbie, no? Renderle più grandi, perciò questa qua deve essere diciamo una frase motto per quello che faccio. Dobbiamo svelare completamente, diciamo, i soprusi sugli animali, non appoggiarli al 50%, dobbiamo schierarci un po' più concretamente. Tutto qui. Accennavamo poco fa a Sea Shepherd, l'associazione che si batte contro la caccia alle balene. Noi nel nostro piccolo ci battiamo più in generale contro la caccia di ogni genere. E battiamo la testa nel muro, naturalmente. Sì, infatti, perché in Italia la caccia non sembra perdere molto terreno, almeno non quanto vorremmo. A questo proposito c'è una notizia. Il 22 maggio scorso a Gardone Valtrompia, non a caso la sede dell'azienda produttrice di armi da caccia e da guerra Beretta, si è svolta la terza edizione della celeberrima Giornata Nazionale dell'Orgoglio Venatorio, della quale sentivamo tantissimo il bisogno, che ha fatto registrare la partecipazione di circa 5.000 cacciatori, caratterizzata dallo slogan scandito a pieni polmoni «Uniti si vince». Un gruppo di coraggiosi animalisti ha srotolato uno striscione con la scritta «Basta caccia» e le forze dell'ordine hanno fermato una decina di cacciatori che hanno reagito con un po' troppa foga. Nel corso della giornata nazionale dell'orgoglio venatorio, i cacciatori e diversi sindaci presenti hanno posto l'accento sui problemi attuali della caccia, in particolare lo smembramento del settore che sta facendo fronte comune contro chi non garantisce più alcuna tutela alle stesse associazioni. I manifestanti si sono rivolti al mondo della politica, la quale sembra essersi dimenticata dei cacciatori, così loro dicono, dei loro valori e del lavoro svolto. Anche in questa occasione i media hanno riportato la logora dichiarazione con la quale i cacciatori cercano di rendersi socialmente accettabili, che è la seguente: siamo rimasti gli unici a occuparci della pulizia dei boschi. Le vere colf della natura. Ricordiamo che per saperne di più sulla caccia troverete nella home page del nostro blog www.restiamoanimali.it gli atti del convegno Perché la caccia è fuori dalla storia e un link per l'acquisto dell'ebook Il vero volto della caccia, edizioni Terra Nuova. Qualche settimana fa abbiamo intervistato Gianluca Felicetti, presidente della LAB, sulla questione dei comuni italiani che, violando le linee guida nazionali sulla ristorazione scolastica, continuano a pretendere una certificazione pediatrica da quei genitori che per i propri figli richiedono un'alimentazione vegan, cioè senza derivati animali, oltre che senza carne e pesce. Il 23 maggio anche il comune di Torino, attraverso la sua assessora alle politiche educative, Maria Grazia Pellegrino, ha confermato che revocherà le attuali disposizioni del comune, abbattendo così ogni barriera verso la scelta vegan, così come prescritto dal Ministero della Salute italiana. Su questo tema abbiamo una perla. Perla di Labuan? No. Perle Porci? Nemmeno. E quindi? Roberta Marini, che ha scovato un'altra grande promessa della letteratura cruelty free. Si tratta di Sara Ronchi, una psicologa che ha recentemente dato alle stampe il suo libro Io non mangio animali, informazioni, comportamenti ed esercizi per diventare e rimanere vegani e vegetariani. Sentiamo. Sara Ronchi, il suo ultimo libro Io non mangio animali. Sono una psicologa ad indirizzo cognitivo comportamentale, quindi gli esercizi che si trovano alla fine del libro sono esercizi sia cognitivo che comportamentali, quindi il lettore diventa proprio attivo nel portarli avanti. È diviso in sezioni, la prima parte è molto teorica, nel senso che se non si hanno delle motivazioni forti non si riesce ad andare avanti nel cambiamento, quindi prende in esame la motivazione etica, la motivazione salutista. C'è un ampio capitolo dedicato alla violenza sugli animali e allo sfruttamento degli animali. Allora, il lettore non si deve spaventare nel cambiamento, perché comunque un cambiamento duraturo è sempre graduale, quindi gli esercizi, se non si riescono a fare subito, si può magari stoppare qualche giorno e poi riprenderli dopo, non c'è una scaletta. Di solito noi sappiamo comunque che abbiamo un senso più sviluppato di un altro, cioè una persona magari più visiva, una persona più uditiva, più tattile, olfattiva, quindi in base al senso più sviluppato c'è l'esercizio adeguato da portare avanti. Quindi un esempio, nel libro si trovano tante figure di animali sofferenti, io ho voluto mettere sia gli animali d'affezione ma soprattutto gli animali da allevamento e quindi da reddito. Perché? Perché di solito noi proviamo l'empatia, quindi la comprensione dello stato d'animo dell'altra persona o dell'altro animale, spesso e volentieri solo per i nostri amici che abbiamo in casa. Certo. Ci sono figure anche di maiali, vitelli, mucche, caprette, quindi agonizzanti o in condizioni di prigionia, quindi la persona visiva avrà le figure dove con il suo quadernino a fianco scriverà cosa vede. Per la persona uditiva mi sono avvalsa del sito e della collaborazione della verabessia.org. Sì. Qui la persona uditiva, ovviamente senza vedere immagini, si può collegare veramente a dei link dove i gemiti e i lamenti degli animali sono una cosa straziante. C'è un capitolo sull'esercizio tattile e è collegato al fatto di entrare in macelleria e pescheria. Ho evitato la grande distribuzione perché la persona nella grande distribuzione trova già il pacchetto di carne confezionato, pulito, non ha più le sembianze dell'animale e quindi ho detto... invito il lettore vivamente ad entrare invece nelle botteghe, ci sono ancora le macellerie, le pescherie, ad entrare e ad osservare in un primo capitolo, cioè osservare com'è una vetrina di una macelleria, osservare com'è una vetrina di una pescheria, osservare anche il grembiule stesso del macellaio, sì, è sporco di sangue, invito proprio a comprare della carne macinata rossa e un pesce non pulito e portarselo a casa con la carne, di affondare la mano in questa carne fredda, perché comunque la carne è fredda, e nello stesso tempo cercare di chiudere gli occhi e immaginarsi di toccare le carni di un animale che prima, voglio dire, negli esercizi precedenti abbiamo visto essere vivo, senziente, con sentimenti, dolori, gioia, e io sto toccando le sue carni. Ecco, è un esercizio molto forte. È un libro, diciamo, che esce un po' dalle righe, è un libro un po' particolare, però io credo che sia proprio di supporto alle persone che si vogliono avvicinare a un mondo fatto di non sofferenza. Sara Ronchi, Io non mangio animali, informazioni, comportamenti ed esercizi per diventare e rimanere vegani e vegetariani. Oggi dedichiamo lo spazio musicale non a uno, bensì a due grandi nomi del rock, uniti non tanto per duettare ma per le loro scelte di vita. Paul McCartney, come Morrissey, ha deciso che durante i suoi concerti, nei punti di ristoro delle strutture in cui si esibisce, non potranno più essere serviti prodotti di origine animale. È una piccola cosa, ma nutriamo la speranza che questo tipo di sensibilizzazione possa aiutare a prendere coscienza che uno stile di vita cruelty free è possibile e che ci si può divertire senza nuocere a nessuno. Per festeggiare i veg concerti del baronetto, ascoltiamo un bel brano dello Snob Morrissey da quella che tutt'oggi è la sua ultima fatica discografica, da cui abbiamo estratto The Bullfighter Dies. Il torero muore, pace all'anima sua. Sabato 21 maggio si è vissuto un pomeriggio da corrida, o forse sarebbe meglio dire da Far West, nelle strade di Reggio Calabria, dove una vitella di 300 kg ha vagato per due ore in centro, sotto gli occhi impauriti di passanti e automobilisti. Le forze dell'ordine, dopo averla inseguita mentre fuggiva terrorizzata e dopo aver ripetutamente tentato di investirla in auto, nei giardini di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, l'hanno abbattuta a colpi di pistola. Questa la notizia così come è uscita nei giornali. Ma intanto sui social il dottor Ivan Vespia, professione veterinario, sta confermando che né lui né i suoi colleghi specializzati in teleanestesia, ovvero in grado di colpire con una cerbottana un animale da lontano e anestetizzarlo mettendo in sicurezza l'animale stesso oltre alle persone, sono mai stati contattati dalle autorità per un intervento su questa vitella, che è stata invece brutalmente abbattuta con 7 colpi sparati da una pistola di ordinanza di un carabiniere in servizio. Scrive Ivan Vespia: increduli di non essere stati in alcun modo contattati, restiamo sbigottiti e ci chiediamo perché. Ognuno ha le proprie competenze. Le autorità che sono intervenute avevano un protocollo da rispettare: chiamare chi ha competenza e non giocare a fare i cowboy. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ci sono giorni, o anche settimane, durante le quali avere una spiccata sensibilità verso la sofferenza altrui è proprio dura. Un dessert vegan non sarà certo la cura, ma sicuramente sarà qualcosa di dolce e senza crudeltà. Ecco la ricetta per la crostatina mandorlata dal cuore morbido. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di pasta frolla, trovate la ricetta nell'archivio dei podcast del Pasto Gentile, un cucchiaio di mandorle a scaglie, un cucchiaio di gocce di cioccolato fondente, 100 g di latte di mandorle, 100 g di farina 00, 25 g di olio di semi di girasole, un cucchiaio di cacao amaro in polvere, 70 g di zucchero di canna, un pizzico di cannella in polvere, un pizzico di sale e mezza bustina di lievito per dolci. Stendete la pasta frolla in maniera uniforme ad uno spessore di 3 mm circa. Foderate 4 stampini da muffin che avrete precedentemente oleato e infarinato e metteteli in frigorifero. In una ciotola unite il latte di mandorle e l'olio. A parte unite la farina, il cacao, lo zucchero di canna, il lievito, la cannella ed il sale. Mescolate bene le polveri e poi unite il tutto alla parte liquida. Amalgamate bene fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Distribuite l'impasto negli stampini, coprite con le gocce di fondente e le mandorle a scaglie ed infornate a 180 gradi per 25 minuti. Una volta tolti dal forno, fate riposare per almeno 30 minuti prima di servire. I snap a jack, front to back, in this thing called rap. Dig it like a shovel, rhyme double on a heavily level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 714, wise, divine. Maniac, brainiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. I've got the power. Vi ringraziano per l'ascolto della puntata di oggi Francesca De Matteis, Roberto Bennati, Giuseppe Notar Bartolo, Roberta Marino, Sara Ronchi, Moby Dick, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco e la super perla di Labuan, Camilla Lattanzi. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.